l'altra Europa. Siamo in diretta con Radio 24, questa è l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa delle storie, delle persone, puntata ovviamente stravolta per i tragici fatti che sono accaduti, che stanno accadendo a Parigi. Cerchiamo però di esserci perché l'Europa è il cuore di questo programma. Parigi, oggi, di nuovo è cuore d'Europa e quindi vogliamo portare le nostre riflessioni, ovviamente insieme all'attualità, l'attualità che viene seguita minuto per minuto da Radio 24, quindi tutti gli aggiornamenti troveranno spazio all'interno dell'altra Europa se ci sono fatti di rilievo, ma noi cercheremo di conoscere, scoprire, toccare, respirare quello che sta accadendo a Parigi in queste ore. WhatsApp per i vostri messaggi in diretta, se volete scriverci, se vi trovate a Parigi o in Francia, avete voglia di raccontarci quello che state vivendo, 349-238-6666, sia per gli SMS sia per WhatsApp. Ma andiamo subito a Parigi, lo facciamo con Maria Chiara Prodi, che è coordinatrice artistica dell'Opéra Comique, quindi si parla di cultura, si parla di musica, si parla di uno degli obiettivi dei terroristi proprio ieri sera. Ciao Maria Chiara, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, ciao a tutti. Luoghi che tu conosci molto bene, quelli che sono stati al centro degli attacchi. Luoghi che sono quotidiani per non solo una generazione di giovani, ma tutti passiamo dalle strade che sono lungo il canale San Martin, tutti siamo andati per forza a sentire un concerto al Bataclan, io forse ci sono andata anche 2 o 3 volte, e il Carillon e il Petit Cambodge sono dei posti dove appunto si passa, ci si va, si ferma a prendere un caffè, a mangiare, quindi sono i posti della quotidianità e della... e forse dello stile di vita parigino che è apprezzato da tutto il mondo, tranne evidentemente da chi lo considera un abominio, come è stato rivendicato proprio pochi minuti fa. I teatri sono chiusi oggi e fino a nuovo ordine. I teatri sì, e non solo i teatri, anche gli eventi sportivi, le scuole. Le università, esatto. Per noi che lavoriamo in questo settore ovviamente è uno shock e... pensavo ieri che proprio un anno fa noi inauguravamo la nostra stagione il 13 novembre, era stata una giornata di festa perché festeggiavamo i 300 anni del nostro teatro e quindi il pensiero va a queste persone che erano andate per passare una serata serena e a tutti coloro che si trovano appunto a gestire in questo momento delle situazioni anche di con un pubblico che sono sempre state considerate magari festive, allegre e adesso vedo quello che succede tra... diciamo, ci sono due canali, ci sono da una parte su Twitter tutte le foto dei dispersi, le persone che cercano aiuto, e d'altra parte tutti quelli che stanno organizzando feste per questa sera per cercare di reagire alla paura, feste, incontri, e quindi è anche questa la forza forse di Parigi, che è andata a donare così tanto sangue stamattina che adesso gli ospedali stanno dicendo basta perché non sanno più dove metterlo, quindi... è una Parigi che come il suo motto, che è fluctuat nec mergitur, cioè appunto non vuole affondare nonostante appunto la navigazione sia complessa in questo periodo. Alcune voci questa mattina raccontavano di una Parigi spettrale, le strade in questo momento si stanno risvegliando? Alcuni mercati sono aperti, ci sono i bambini che giocano al parco, poi ovviamente diciamo il flusso delle persone per strada non è quello abituale, questo è un po' evidente, e poi anche forse il fatto che siamo tutti rimasti a guardare la televisione fino alle 4 del mattino, per cui c'è anche questo effetto, magari oggi nel pomeriggio ci sarà, come c'è stato in gennaio, la voglia di riprendersi le strade, di ritrovare una normalità, anche se sappiamo che insomma questi episodi ci confrontano a un diverso tipo di normalità, forse al fatto che viviamo in un mondo in cui questi episodi ci saranno, ecco. Ma infatti il primo pensiero ieri sera cos'è stato? Ecco, ci risiamo? Pensavamo di aver già dato. Mm-hmm. È stato cosa sta succedendo, e poi appunto io sono nel 12° arrondissement, quindi sia a gennaio che appunto nell'epicentro di Port de Vincennes, sia ieri appunto a pochi centinaia di metri da casa mia si sono consumate queste cose e nessuno si può sentire al riparo, ecco, però mi pare che lo spirito di tutti sia di rivendicare il modo in cui si vive di fronte a delle persone che hanno in mano un'arma e che potrebbero approfittare anche loro di questa vita, della cultura, della convivialità, e che scelgono una vita diversa. Quindi appunto restano tante domande: perché scelgono quella vita? E non sappiamo ancora chi sono, ma se sono francesi, perché scelgono quella vita nonostante l'educazione che hanno ricevuto, la vita che hanno potuto vivere? Quindi ci sono soprattutto tanti interrogativi. Certo, e Mera Chiara, ti chiedo un minuto di pazienza, il traffico, poi voglio tornare un attimo da te con un'altra domanda. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta L'altra Europa. La Parigi che comunque risponde, la Parigi che rialza la testa, la Parigi dove si stanno organizzando incontri, cene, c'è voglia anche di condivisione e di non lasciarsi sopraffare dal terrore. È la Parigi che ci sta anche raccontando Maria Chiara Prodi in questo momento. Maria Chiara, tanti ragionamenti questa mattina anche sul valore dei social network, ieri sera, questa notte, ora anche per i dispersi, per i feriti, per raccontarsi, cercarsi. Anche per voi, per gli italiani a Parigi, si è attivata questa rete? Assolutamente sì, anche perché appunto è stata una rete, appunto a un certo punto Facebook ha creato questa pagina per dare uno stato, per dire che si stava bene, quindi a un certo punto l'abbiamo credo usata tutti per rassicurare, per anche alleggerire magari il peso sulle reti telefoniche e sulle numeri di telefono più urgenti. Devo dire che anche appunto i contatti delle nostre istituzioni, per chi era qui, sia per turismo che per lavoro, sono stati molto buoni. Io stessa ho dovuto contattare i consolati e devo dire che appunto c'è stata una risposta immediata, anche per capire che cosa voleva dire le frontiere chiuse, se si poteva partire ugualmente, cosa significava appunto per chi appunto oggi avrebbe lasciato la Francia, sarebbe arrivato questa situazione. Quindi questi contatti, devo dire, sono stati anche via social network, anche attraverso, grazie appunto alle istituzioni, quindi veramente non so cosa sarebbe stato, come sarebbe stato diversamente. Ecco, e anche il fatto che da quasi subito si è emerso questo hashtag Porte Ouverte, che permetteva appunto a chi si trovava per strada lontano, sì, da casa, di poter entrare al riparo negli appartamenti di cittadini solidali, è stato molto importante. Alcuni erano semplicemente lontani da casa, avevo amici che erano usciti a cena lasciando i figli a casa con la babysitter, quindi cose anche rispetto alla gravità degli eventi, semplicemente di contrattempi, però ovviamente l'angoscia di quelle ore, diciamo, è stata un po' stemperata potendo tenere contatti con tutti e rassicurarsi a vicenda. Grazie davvero Maria Chiara, e in bocca al lupo, buona giornata. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie. (349) 238 6666 per i vostri messaggi via SMS o via WhatsApp. Noi torniamo a Parigi e torniamo con una giornalista con cui ieri sera a Milano, all'ora dell'aperitivo, stavamo presentando un libro. Il libro si intitola Europa Anno Zero. Si parla d'Europa davanti ai movimenti nazionalisti, ma dell'Europa davanti alle paure, davanti alle preoccupazioni. Si parlava dell'Europa che è e dell'Europa che sarà. Poche ore dopo sono arrivate le notizie degli attacchi a Parigi, abbiamo avuto uno scambio di messaggi e si stava già organizzando per raggiungere la capitale francese, e ora è là. Do il benvenuto a Eva Giovannini, inviata di Ballarò. Ciao Eva. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Allora, intanto com'è stato questo arrivo a Parigi questa mattina? È abbastanza impressionante vedere Parigi semivuota, vedere Parigi che non ha diciamo il solito traffico per le strade, i marciapiedi appunto vuoti, e d'altronde Hollande nel suo discorso questa mattina ha detto di restare a casa chi può, e evidentemente un po' per paura, un po' per obbedire diciamo al capo di Stato, la gente non sta uscendo. E diciamo che nella zona poi degli attentati ci sono ancora un sacco di ambulanze, altronde non tutti i cadaveri ancora sono stati identificati, quindi c'è ancora una situazione di grande. Le persone con cui ho parlato finora la parola più ricorrente è cauchemar, cioè sembra un incubo, no? Si sono svegliate questa mattina dicendo forse era un incubo, come se avessero fatto un brutto sogno. Ahimè, ovviamente è tutto vero, e insomma in questo momento, poi pochi minuti fa è uscita la rivendicazione dello Stato Islamico qui sui social network, qua a Parigi insomma si parla molto di questo, perché ovviamente ci sono una rivendicazione che peraltro si conclude con Ce n'est qu'un début, no? Quindi questo è solo l'inizio. E del resto è quello che tu citavi prima nel mio libro, mi aveva detto Michel Houellebecq, lo scrittore, autore di Sottomissione, quando l'avevo intervistato proprio dopo la strage di Charlie Hebdo, mi aveva detto esattamente questo: non è che l'inizio, la Francia resterà nel mirino, anche voi italiani lo siete, aveva aggiunto, se potranno provocheranno una guerra civile in Francia e purtroppo, secondo me, diceva, ci saranno altre ferite, ecco, infatti, neanche un anno dopo. Maria Chiara, prima da Parigi, ci diceva che la prima reazione ieri sera è stata, pensavamo di avere già dato, e invece no. Evidentemente ancora non è stato sufficiente. Ho appena parlato al telefono, pochi minuti prima di essere chiamato alla radio, con Pascal, che è un ragazzo che ieri sera stava con gli amici a Rue de la Fontaine Roi, che è praticamente dove hanno sparato in strada e dove ci sono stati 6 morti, e lui mi diceva sembravano dei petardi, non capivamo bene che cosa fossero, ci siamo buttati dentro un McDonald's sotto le cucine, abbiamo aspettato che finissero questi rumori e poi quando sono uscito sul marciapiede ho visto una signora anziana a terra ed era morta, quindi insomma, ho parlato abbastanza, era ancora completamente sotto shock questo ragazzo. Certo. Vedremo quella che sarà la reazione della città. Sempre Maria Chiara prima ci diceva che gruppi di amici si stavano già organizzando per reagire questa sera, anche solo trovandosi a cena insieme per dare una risposta diretta, immediata, a chi invece vuole l'incubo, a chi invece vuole il terrore. Eva, questa Europa anno zero aggiunge un capitolo al suo cammino. Vedremo dove ci porta. Vedremo, speriamo che ce la faccia a andare oltre la solidarietà di rito e il je suis, qualcosa che ogni volta no, facilmente mettiamo sui social e nelle dichiarazioni pubbliche. Vediamo se questa volta ce la facciamo avere una voce sola come Europa. Mi auguro che sia la volta buona, che possiamo davvero dare un'immagine che non è solo un'immagine, ma insomma qualcosa di più. D'altronde ha nominato proprio i valori fondanti, no? Quando in queste rivendicazioni parlano di perversione, la perversione di chi va ai concerti, ecco, è proprio lì, no? È culturale, no? Non c'è alcuna perversione andare a un concerto. Io mi auguro e credo che non solo i concerti rock sopravvivano, ma appunto la libertà. Grazie davvero Eva Giovannini, corrispondente di Ballarò, e buon lavoro per le tue grazie, prossime giornate. Federico. Ciao, grazie ancora. Ciao, ciao. A presto. Roberto ci sta ascoltando dall'aeroporto di Parigi e dice: un clima surreale quello che si vive qua. I vostri messaggi sempre via SMS, via WhatsApp, ricordo il numero 349-238-6666. Ancora Parigi, ancora una voce italiana. Diamo il benvenuto a Pietro Trincanato, studente PhD, studia storia e vive appunto a Parigi. Ciao Pietro. Ciao Federico. Ciao. Pietro o Piero, scusa, Pietro, vero? Pietro. Perfetto. Sì, sì. Pietro, come hai vissuto la tua serata ieri sera e come stai vivendo questa mattinata oggi? Ma allora, come dicevo al vostro collaboratore quando mi avete contattato questa mattina, io per fortuna ero in una zona decisamente distante da quella in cui sono verificati gli attentati, perché io abito a sud, a Port d'Orléans, per cui... Sì. Diciamo che per me l'allarme è scattato nel momento in cui sotto casa ho iniziato a sentire sirene una dietro l'altra, perché quello è il corridoio che la Prefecture de Police usa per far affluire macchine verso il centro quando c'è qualche problema, e da lì mi sono allarmato, ho iniziato a sentire gli amici del decimo e dell'undicesimo, che per fortuna stavano tutti bene, spaventati più di me perché sentivano i colpi, ma sicuri, e poi è iniziata una lunga nottata di aggiornamenti spesso confusi fra l'Italia che chiedeva su WhatsApp come andava, cosa succedeva, e mi rimandava le notizie che giravano da noi sui giornali, i media francesi molto più equilibrati, forse anche per non diffondere il panico, e per cui meno numeri sparati sulle vittime, meno allarmi lanciati, insomma è andata così fino alle 2 con tanta angoscia. E so che invece questa mattina sei andato a donare il sangue, lo hai fatto sì, per... sarebbe meglio parlare a futuro perché abbiamo ancora un'ora e mezza di attesa. Ah, okay. Detto, io sono tra i fortunati perché la fila è lunghissima. Sì, è la cosa che mi è parsa sensata fare questa mattina. Ho visto un annuncio su, appunto, seguendo, quando mi sono svegliato, su Twitter, ho visto che l'associazione dei donatori di francesi diceva che c'era bisogno. Ho chiamato l'ospedale Pompidou, che è qua giù nel 15° vicino dove sto io. Mi hanno detto di venire e mi sono messo in fila con una miriade d'altra gente. Anzi, addirittura pare che ci dicevano prima che tutti gli ospedali di Parigi sono stati invasi praticamente da donatori, per cui stanno cercando di scaglionare anche nei prossimi giorni, soprattutto perché avranno bisogno di plasma e dunque chiedono di venire anche in settimana. Ma c'è una fila che io non so chi è in fondo, quanto dovrò aspettare. Io sono a 4 metri dalla porta e ci hanno dato un'ora e mezza, per cui... Insomma, anche questa è una risposta, anche questo è un tuo modo per esserci, per dare il tuo contributo. Tu sei dottorato in storia, se non erro? Sì, io sto facendo un dottorato in storia, in cotutela fra Milano e Parigi Est, per cui passo qua qualche mese tutti gli anni, appunto tra l'autunno e l'inverno, per fare ricerche in Biblioteca Nazionale, negli archivi di Parigi. Ecco, la tua riflessione da storico su questo momento qual è? Hai avuto modo di soffermarti un attimo anche su questo? Secondo me è molto difficile, nel senso che questa mattina secondo me tutti ci sentiamo un po' troppo pensatori e capaci di trarre conclusioni. Io devo dire che già all'inizio dell'anno, a gennaio, quando qua abbiamo passato i giorni terribili di Charlie, la città era ferita e tutti abbiamo preferito forse stare in silenzio piuttosto che trarre conclusioni. Credo che questo momento sia, se possibile, ancora peggiore, perché al di là delle riflessioni sui massimi sistemi, sugli scontri tra civiltà presunti o esistenti, sui quali io sono abbastanza dubitabondo, credo che sia un problema reale, cioè la sicurezza di tutti noi nel fare le cose più normali. Questa è la cosa su cui, invece che lanciarci in proclami, in guerre sante, al contrario, invece in buonismi gratuiti, sarebbe meglio che tutti noi riflettessimo su se è possibile continuare a vivere così, sapendo che se vai al bar a bere con gli amici o a sentire un concerto, poi a finire la serata sdraiato per terra perché qualcuno ha pensato di spararti. Sì, questo... Io francamente trovo che è difficile trarre conclusioni. Assolutamente, questo mi sembra che sia anche il desiderio comune, la riflessione comune delle voci che stanno arrivando da Parigi, voglia e diritto alla normalità. Grazie davvero Pietro, in bocca al lupo, e insomma questa ora e mezzo di attesa, insomma, che sia un contributo ulteriore al tuo essere oggi a Parigi. Ciao, buona giornata. Grazie, buona giornata. Noi ci fermiamo un attimo di pubblicità, poi rientriamo qua in diretta con l'Altra Europa, voci e pensieri da Parigi. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa in diretta in questa puntata speciale che stiamo dedicando ai fatti di Parigi, gli aggiornamenti alle 13. Con il GR di Radio 24 noi ora stiamo raccogliendo voci, impressioni, emozioni anche di chi ha vissuto, non direttamente, ma magari perché viveva a Parigi o perché lì aveva amici o parenti, questa serata, questa tragica notte, questa mattinata, e appunto che ci stanno anche facendo vivere le voci che stiamo ascoltando. Poi ci sono le voci istituzionali e ci sembrava doveroso sentire anche la voce dell'Europa. Non ci sono, credo, ancora dichiarazioni ufficiali, ma ne parliamo con il direttore della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Emilio Dal Monte. Ciao Emilio, ben tornato all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Emilio, siamo tutti scossi ovviamente, ma è proprio in questi momenti che la politica non deve nascondersi, anzi. Quale può essere la risposta dell'Europa, al di là delle parole, secondo te? Federico, intanto non è che siamo solo scossi, siamo penso tutti sconvolti. Questo perlomeno è il termine che ha usato il presidente Juncker ieri sera nel messaggio personale che ha voluto inviare al presidente Hollande. E ovviamente il primo nostro pensiero è quello di estendere le nostre condoglianze per le vittime, alle loro famiglie e direi al popolo francese tutto. Certo. Cosa possiamo fare? Come hai detto giustamente, non ci sono ancora state reazioni ufficiali né diciamo propositi di intervento immediato. Ciò detto, l'unica cosa che mi sento di sottolineare è che il problema del terrorismo non è un qualche cosa di cui l'Europa non parli o di cui non si occupi, al contrario. Tant'è vero che nell'aprile di quest'anno la Commissione europea ha presentato la sua agenda proprio per la sicurezza, che deve portarci qui al 2020, che ha fondamentalmente tre obiettivi. Il primo è proprio quello della prevenzione del terrorismo e della lotta contro i fenomeni di radicalizzazione. Dopodiché si occupa di lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità. Abbiamo dei problemi con la linea, adesso richiamiamo immediatamente Emilio Dal Monte, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Intanto vi ricordo anche che potete contattarci in diretta via Twitter, l'hashtag è l'altra Europa, il mio account personale è chiocciola Federico Taddei, oppure via WhatsApp ed SMS, i numeri 349-238-6666, arrivano i vostri pensieri, tante condoglianze, tanta rabbia anche, però credo che questo, oltre al momento della rabbia e della disperazione, sia il momento assolutamente della riflessione. Ecco, ci siamo ricollegati con Emilio Dal Monte, eccoci Emilio. Sì, no, dicevo che l'obiettivo della nostra agenda europea per la sicurezza è in primo luogo quello della prevenzione degli atti di terrorismo e la lotta contro i fenomeni di radicalizzazione, e qui ci siamo in pieno, direi. Poi si parla anche di lotta alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. Le azioni da fare sono anzitutto rafforzare sempre di più la cooperazione a livello di Europol, quindi a livello del coordinamento fra le forze dell'ordine, in particolare le forze di intelligence che si occupano appunto di contrastare questi fenomeni. E fra le proposte c'è anche quella di creare un centro antiterrorismo vero e proprio che favorisca e supporti ulteriormente il coordinamento fra gli stati. Quindi c'è una risposta che è assolutamente, diciamo così, che esiste. Perfetto, speriamo, insomma, vedremo anche nelle prossime ore, quando arriveranno anche le dichiarazioni ufficiali. Grazie Emilio, buon lavoro. No, grazie altrettanto. Buona giornata. Torniamo a Parigi, lo facciamo insieme a uno studente Erasmus che sta frequentando là il terzo anno dell'università. Diamo il benvenuto a Matteo Grosso. Ciao Matteo. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno a te, cosa stai studiando? Studio economia e gestione delle imprese a Paris Dauphine. Ok. Allora, la voce dell'Erasmus, la voce dell'Europa, dei tanti studenti di Parigi, tanti studenti italiani, tanti studenti europei che sono lì e che ieri sera hanno fatto rete, lo abbiamo visto e lo abbiamo anche raccontato prima attraverso i social network principalmente, ma non solo. Come avete vissuto, come hai vissuto tu la serata? Dov'eri? Cosa è successo? Allora, al momento degli attacchi ero a casa, sì. E subito mi sono arrivati tantissimi messaggi da amici, perché c'è stata una vera e propria mobilitazione, cioè noi effettivamente qua siamo da soli e quindi la famiglia che abbiamo è quella degli amici e quindi quando abbiamo saputo abbiamo subito iniziato a mandarci messaggi, a cercarci, perché avevamo paura, avevamo poche informazioni riguardo a quello che stava succedendo e quindi insomma il network con WhatsApp, Facebook è stato veramente fondamentale. Fondamentalmente avevamo paura perché non trovavamo qualcuno, quindi quando un tuo amico non risponde al telefono, non riesci a trovarlo e sai che allo stadio veramente sono momenti brutti, perché non puoi fare niente ovviamente per aiutarlo, non puoi uscire, non puoi... ti senti un pochino veramente impotente, perché l'unica cosa che puoi fare è continuare a provare a chiamarlo, ma ovviamente allo stadio hanno bloccato il network, quindi lui non poteva neanche farci sapere che stava bene e quindi tu sei lì che insomma guardi Facebook sperando che clicchi su sono a Parigi, sto bene, insomma sull'applicazione che è nata, che immediatamente è stata utilizzata su Facebook. Certo. Quindi veramente. E Matteo, questa mattina invece, immagino la notte avrete fatto le ore piccole proprio per seguire gli avvenimenti in diretta, e questa mattina hai aperto le finestre, cosa hai visto? Cosa ti ha colto? Devo dire la verità, i francesi sono forti, nel senso che la città è tornata a lavorare come se quasi niente fosse successo. Se passi per le strade noti che la gente parla dell'attentato e ha un po' paura, lo vedi negli occhi, però sono, come dire, cercano di non esternarlo. Io sono andato a tagliarmi i capelli, a fare la spesa, e la gente si parla tranquillamente, nessuno menziona quello che è successo, quindi insomma cercano di reagire. Orlando ha detto una cosa molto bella, che noi effettivamente, cioè, i terroristi vogliono farci sentire il freddo e la paura, però i francesi cercheranno, diciamo, tramite l'amore, tramite la dedizione al lavoro, cercheranno di combatterlo. Quindi diciamo, questo è quello che ho un po' visto stamattina. Ieri notte siamo rimasti tutta la notte ovviamente svegli, perché stavamo cercando di contattarci il più possibile. Certo. E tramite, c'è stata l'app Porte Ouverte, che praticamente serviva ai francesi per aiutare gli studenti che erano in strada. E io avevo questi due miei amici che erano in strada, e hanno detto, quando ci hanno aperto la porta non ci sembrava vero, perché i taxi non rispondevano e non riuscivamo a contattare nessuno. E quindi insomma, allo stesso tempo, per tutta la comunità Erasmus è stato, come dire, tirare un respiro di sollievo, ecco. Grazie davvero, Matteo, per la tua testimonianza, in bocca al lupo per queste giornate, che comunque non saranno facili, e per la tua attività universitaria. Ciao, grazie. Grazie mille. Buona giornata, Federico. Rimaniamo a Parigi con chi ci è arrivato ieri sera, anche se vive a Roma. Lui è il corrispondente dall'Italia di Liberation. Diamo il benvenuto ad Eric Josef. Ciao Eric. Buongiorno. Buongiorno a te. Sì, sei arrivato a Parigi ieri sera, questa mattina. Stavi uscendo di casa pochi minuti fa quando ti ho contattato. Quali sono state le impressioni che hai... Le impressioni prima e le riflessioni poi, da giornalista, da saggista, che insomma segue da anni queste vicende? L'impressione di un po' di un tempo sospeso, di un po' di cercare di fare il punto, di sembra che abbiamo la conferma adesso che c'erano 8 terroristi, che 8 terroristi erano morti. Poi vuol dire che non c'è stato per lunghe ore l'idea che potessero essere dei terroristi in fuga. Sembra di no, dunque c'è il rischio sempre di avere altre cellule terroristiche che si mettono in moto, però comunque sembra che la minaccia immediata sia un po' calata. Però c'è questa interrogazione su che cosa succederà dopo e adesso. Cioè, ovviamente adesso si cerca di saperne di più sul numero delle vittime. Si sentono molto adesso, da stamattina, le testimonianze come quella che abbiamo appena sentito, però delle testimonianze proprio agghiaccianti del modo in cui hanno operato i terroristi. E dunque è il momento in cui per la prima volta da tutte queste ore, da ieri sera, un po' qualcuno si prende un po' il respiro. Poi si cerca di analizzare, di vedere in quanto cambierà la nostra vita, perché senz'altro un attacco del genere all'impazzita su tutte in per strada, in luoghi di aggregazione, vuol dire che ormai la minaccia è dappertutto. Certo. Rispetto agli attentati di gennaio segna senz'altro un cambiamento di varia natura. Il primo è i kamikaze che si fanno esplodere nel centro di Parigi, nel cuore di Parigi, e questo era una cosa che si vedeva appunto in Afghanistan, in Medio Oriente. Dunque prima i terroristi si sapeva che andavano molto spesso incontro alla morte, e lo facevano in quanto martirio, però proprio un kamikaze coperto di esplosivo, questo è una novità. E l'altro è appunto gli obiettivi scelti, sono gli obiettivi di aggregazione che, certo, che luoghi del tempo libero, luoghi frequentati soprattutto da giovani. Sì, luoghi di aggregazione. Poi nella rivendicazione che sarà arrivata da Daesh, dice luoghi appunto di svago e contro in qualche maniera la morale, cioè sì, lo stadio, il ristorante, la sala di concerto. Però comunque il segno è di dire che qualsiasi persona a qualsiasi momento può essere vittima del nostro terrore. Questo è il messaggio che hanno voluto mandare, mentre ancora a gennaio c'erano degli obiettivi ben precisi, scandalosi, ignobili, però degli obiettivi ben precisi. Adesso il messaggio è di dire tutti i francesi sono in qualche maniera in linea di mira del nostro terrore. Questo ovviamente mette la posta e la risposta a un alto livello. Ci sarà senz'altro una risposta di tipo politico, di tipo poliziesco, di tipo forse anche legislativo, anche se tanti provenienti sono già stati presi, che riducono in qualche maniera la libertà su internet, che ci sono maggiori controlli sul telefono, sui nostri scambi mail. Forse ci saranno di quei altri interventi legislativi, almeno di sicuro un'applicazione più rigorosa di questi nuovi provvedimenti. E poi ci sarà da pensare in cui sia sulla politica estera della Francia, ci sarà una riflessione e probabilmente un dibattito, e poi una riflessione anche sul rapporto con come svuotare l'acquario dei pesci terroristi, un po' come l'Italia si è posto il problema dei 70. Certo. Aveva come obiettivo di fare in modo di isolare i terroristi dalla società. Questo sarà da fare in modo che anche nelle periferie, soprattutto nelle periferie, che non ci siano più nessuna circostanza attenuante date ai terroristi, come si era visto a gennaio. Questo è un lavoro politico che sarà da fare veloce, subito. Che sarà difficile, sì, che sarà difficile, perché ovviamente c'è una lotta politica e ci sarà senz'altro è da tenere una strumentalizzazione politica di quello che è successo. Assolutamente. Dunque la sfida bisogna rispondersi veramente veloce. Grazie Eric per questa tua testimonianza, per questa tua riflessione. Buona giornata oggi nella grazie tua Parigi. Ciao, grazie. Grazie. Ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta l'altra Europa. Eccoci qua con l'altra Europa e stiamo chiudendo questa puntata dedicata ai fatti di Parigi. Tante voci, tante testimonianze belle, importanti. Chi era in fila per donare il sangue, chi stava vedendo dei bambini nelle strade di Parigi giocare, chi si stava organizzando per comunque fare una cena tra amici questa sera per dare una risposta immediata, piccola ma immediata, chi invece vuole il terrore, voglia di normalità, questo è quello che abbiamo sentito, voglia, desiderio, la richiesta di questo diritto alla normalità. E chiudiamo la puntata noi facendo una riflessione, probabilmente su questo solco, con chi l'Europa la conosce bene i vari paesi, conosce bene, credo, anche le possibili risposte, forse non politiche, forse economiche, ma soprattutto emotive, a un fatto del genere. Do il benvenuto a Beppe Severnini. Ciao Beppe. Grazie mille Federico. L'Europa la conosci da sempre, l'Europa la stai raccontando anche ora su Rai 3 con questo programma in prima serata, forse l'unico programma in Europa che racconta in prima serata l'Europa. Lunedì andrai comunque in onda? Andremo, perché si può dire, sono orgoglioso di dirlo, anche tu sei quelli che hanno lavorato con me, certo, a questo progetto. È una cosa bella che hai detto, il programma europeo, mi sono posto il problema, guarda, il dubbio mi è durato 10 minuti, poi ho voluto le conferme dalla RAI che sono arrivate, ma bisogna andare in onda perché se noi rinunciamo a andare in onda con un programma europeo in questo momento, vuol dire darla vinta ai barbari alle porte, e che sono oltre le porte, anzi. Ma non è vale solo per chi fa un programma televisivo o un programma radiofonico, ma per chi stasera, ho sentito qualcosa che hai detto, non cambiate programmi, anche se andate a ballare, se andate a cena, se avete previsto di andare a Parigi o in un altro posto, quello che vogliono quelli là, è accaduto dopo l'11 settembre a New York nel 2001, in Spagna nel 2004, a Londra nel 2005. Quello che vogliono quelli là è che noi ci spaventiamo, ci chiudiamo. Allora ha vinto, ma non vincono, vinciamo noi. Un teatro, uno stadio, luoghi di aggregazione, luoghi di socializzazione. Cos'hai provato quando hai visto che erano quelli gli obiettivi degli attacchi? Ho pensato che i mostri non sono solo mostruosi, ma sono anche vigliacchi, perché guarda che entrare con un'arma automatica in un luogo affollato e uccidere 50 persone non è mica tanto difficile, proprio è molto facile. E quindi c'è un orrore aggiuntivo e anche un disprezzo aggiuntivo in questa cosa. E a chi si preoccupa dei luoghi affollati, dico che una volta è successo in una stazione, una volta è successo in una metropolitana, una volta è successo in un ristorante normalissimo, è successo in un bar, è successo in un supermercato in gennaio. Se uno comincia a ragionare in questo modo, di nuovo gliela dà vita, fate le cose normali, non è che i luoghi affollati sono per definizione più pericolosi. Conosci molto bene i francesi, cosa ti aspetti da loro in questo momento? Ma mi aspetto la stessa reazione che ho visto a gennaio, moltiplicata, ma l'ho vista accadere in Inghilterra, che è un paese che conosco ancora meglio, di cui tra l'altro ci occuperemo domani sera in televisione, l'ho vista succedere in Spagna, un altro paese che frequento, l'ho vista succedere in America, io ero lì poco dopo l'11 settembre, ero lì pochi giorni prima per caso a New York, e a fine agosto, e poi sono tornato a fine autunno e l'ho visto succedere di nuovo. Ci sono occasioni in cui in qualche modo tutte le nostre divisioni devono smettere e dobbiamo trovare la costanza, la coerenza, la serenità per andare avanti con le nostre vite. Questa è la cosa veramente importante, e poi per prendere alcune decisioni fondamentali. Ne dico una, però non è una cosa polemica, che l'Islam, chiunque professi la religione islamica e vive in Europa, deve prendere posizione in maniera chiara e inequivocabile e subito, se vuole continuare a vivere in Europa. Questo non è un atteggiamento aggressivo, è inevitabile, e ogni distinguo in materia non verrà apprezzato. Grazie davvero a Beppe Severini, facciamo nostro il tuo invito, non cambiate programmi. Ciao e buon lavoro, grazie. Grazie a tutti voi, ciao Federico. E chiudiamo, abbiamo un paio di minuti con Lorenzo Bellini, che è editor, redattore della rivista Caffè Babel, la rivista Caffè Babel che ha sede, che ha la sua redazione proprio a Parigi e che raccoglie impressioni, storie, reportage molto belli da giovani di tutta Europa. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Ciao. Lorenzo, vero? Scusa, ho detto bene il nome? Lorenzo, sì, esatto, scusa, Lorenzo, ho avuto un attimo di confusione io tra Lorenzo e Leonardo. No. Lorenzo, lunedì vi troverete in redazione e cosa accadrà? Domanda molto complicata a cui rispondere. Forse inizieremo adesso, ho ricevuto alcuni messaggi adesso dai colleghi per iniziare un attimo a pensare, ma da lunedì ci metteremo un po' in moto e cercheremo di fare un po' sempre quello che facciamo sempre, essendo un magazine partecipativo. Sì. E quindi è molto aperto al contributo di ognuno e attraverso il nostro filtro di redazione centrale, i contributi che riceveremo, sicuramente daremo voce ai giovani europei nel modo più diretto possibile. So che ieri sera eravate proprio forse con la redazione o con parte della redazione che stavate festeggiando una cena comunque tra amici, sì, tra colleghi. Eravamo in gran numero della redazione, circa una decina di persone, in un bar vicino alla redazione, non troppo distante dalla Repubblica, dal centro delle vicende di ieri sera. Per fortuna tutto tranquillo, relativamente nel posto dove eravamo, senza emergenza effettiva in particolare, solo tensione ovviamente, e siamo rimasti là abbastanza sommato in modo tranquillo nel bar e poi a casa di un collega, rientrando in nottata più tardi appena è stato possibile. Voglia di normalità è anche questa. Grazie davvero Lorenzo, in bocca al lupo e buon lavoro da lunedì, poi vedremo su Caffè Babel, sicuramente mi immagino tanti racconti, tante riflessioni, come sempre siete molto bravi a fare. Ciao, grazie. Grazie a te. Termina qua questo speciale dell'Altra Europa, l'appuntamento è a sabato prossimo, adesso il GR24 con tutti gli aggiornamenti da Parigi. Questa è Radio 24, cerchiamo di raccontarvi le cose dando voce alle persone. Buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.